Anche oggi in Italia non ci facciamo mancare niente. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Bel terremoto, niente tagli ai costi della politica e Berlusconi che ci dice un'altra volta che fa un passo indietro. E che lo faccia!